facendo le pulizie in casa. Ciao Marco, buonasera. E allora, dove va? Allora, anche qua c'è Affa, ieri siamo andati al mare, oggi riposo, però grazie a Dio, cosa vuol dire fare per terra col caldo, minchia, devo cambiare sabbie e gatti, ho preparato un po' di mondezza da buttare, insomma, normali pulizie, normale amministrazione. Andale, e allora, cosa mi racconti? No, non ho finito, devo vabbè buttare l'acqua vecchia, cambiare la sabbia ai gatti, eccetera. Vediamo se c'è Natalino in ascolto. Natalino? Stavo chiamando, ma nessuno mi ha risposto. Ehi, troppo presto, dai. Troppo presto. Ancora non, certa volta alle 5 accendo, niente, alle 6 accendo, niente, alle 7 accendo, niente, certi giorni entrano solo tipo mezz'oretta, poi riprendono dopo un'ora altra mezz'oretta, capito, è tutto a salti. Caro Eugenio. Vabbè, con le tasse è sempre stata così, adesso ci sarà più gente anche d'inverno. Ehi. Guarda, ieri sono stato tutto il giorno in acqua, in mare, bello, sembrava una piscina, un bijou, guarda, poi mi sono fatto la doccia lì a Platamona, e vabbè, bella giornata ieri, molto bella, era più ventilato a Platamona inoltre. Quindi la Platamona, come sto andando in questa labbuglia la rotonda? Sì, ho visto le ruspe, ma erano già in movimento oggi? No, posso passare era offerte, però il fatto che abbia un posto là sul fuoco e ci siano le ruspe è già buon segno. Ma lo sa cosa vogliono fare? Anziché rifare tutto, come aveva detto Claudio, rifare tutto da zero, in fiammento armato, vogliono rattoppare la parte che è crollata. Hanno stanziato, mi pare, 60.000 euro. Il comune o i vari comuni hanno stanziato 60.000 euro per fare il rattoppo. Praticamente vogliono mettere a posto solo la zona che è crollata. Capito? Così magari il prossimo anno crolla l'altra e ci scappa anche il morto. Eia, sei sempre la tipami, la barbona, quella che dicono la mia ragazza, sempre lì posata con quei cani, allucinante, io mi chiedo come faccia a sopravvivere. Ma quella c'è una cosa in parte del suo, perché non è bello, non è per niente bello. Ma stanno iniziando a valorizzare la Catalogna e c'è quella lì dentro la stessa, quella schifosa. E già la manderanno via, ma la gana, poi se non vuole andare le fanno il TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Ok, e ho visto un po' cose che non mi piacciono a Platamona, per esempio tu vai a destra della rotonda, no? C'era quella via, no? Adesso hanno mezzo lastricato da una parte, hanno fatto il marciapiede in mattonelle. Poi come giri al gomito, come giri, no? Che sono una specie di ristorante, lì hanno messo i blocchetti di cemento per non far parcheggiare le macchine che invece parcheggiavano lì per andare al mare. Praticamente non puoi parcheggiare da nessuna parte in quel pezzo. Il pezzo che va dalla rotonda al Delfino, a quel bar Delfino, come si chiama. Prima dove si parcheggiava hanno riempito tutto di blocchetti di cemento. Addio, adesso chi vuole andare al mare cosa deve fare? Se deve pigliare il tram, non ha giù compreso, no? E ho visto tante altre cose, il quinto pettine è rovinato, hanno ridotto i parcheggi in modo drastico, hanno fatto tutte queste specie di corridoietti fatti col bambù ai lati, non so a chi servano, sembra una specie di risaia diventato, non so se sei mai stato al quinto pettine di recente. Sì, vedete un tappo di parcheggi ci sono e così vi permette qualcosa di fresco ai soschetti. Siamo contenti, non prendete per pari, niente, è il mare bello con la pesca e con il cacao. noi andavamo allo Scoglio Lungo, noi per tanti anni siamo andati allo Scoglio Lungo, e che adesso ci è venuto il pallino in platamona perché l'acqua è calda, molto calda, soprattutto se vai il pomeriggio, no, si è scaldato tutto il giorno ed è proprio un brodo, è bello stare in acqua molte ore lì. Scoglio Lungo leggermente più freddina, vabbè, però qui c'è acque dolci, non siamo mai andati, vorremmo inaugurarle. Poi Palai non andiamo, di solito volevo inaugurare anche Palai. Ci sono questi rompiglioni della propagazione che ti stanno quasi passando, per non dire quasi, ti stanno passando. La propagazione sta alzando, per carità. Marco, anche a te le sta dando fastidio. Come tanto ci copro, c'è qualche forzante che si alza. Purtroppo io ho levato tutto, scarpetta, tutto tolto, perché qua era tutto pieno di polvere, veniva male a pulire. E ho lasciato esclusivamente il baracchino, è giunto a Malogazzo. Ah, quindi non sto dicendo, esci con un baracchino che puoi aumentare un po'. Ma non di molto, cioè passare da 4 watt a 10 watt non cambia molto, cambia di mezzo Santiago. Già cambia, già cambia. Se sono una settantina di watt cambia, sì, sono due Santiago in più, no, da 4 a 10 sono mezzo Santiago. Ricordati, per aumentare di un Santiago, che sarebbero 6 dB, devi quadruplicare la potenza, ricordati la regola. Aspetta un attimo Marco, grazie. Eugenio, non ti sento più. Sta salendo la propagazione, Marco, faccio un contatto, faccio da sentirti. Come ti ha detto Franco, ti sto dicendo io, tu stai trasmettendo a 27.075.40, capito? Punto 40, e quindi sei un po' fuori. Mentre noi siamo a 27.085.00 col decimale a 0, capito? E beh Fra, mi intendi? Allora sì. Sì, adesso sì, ti aspetto. Sì, e a me come mi ascoltavi in direttivo basso? No, no, no, a te riuscivo a prenderti, però la direttiva è 10, 15 e 20, capito? Non è per gli 11 metri, quindi accordata anche per la 27, però non è il segnale abbassa, poi tu sei verticale, io sono a posizione orizzontale, chiaro che abbassava, allora ho commutato la verticale così non ho visto problemi. Sì, capo, no, io va meglio adesso, sì, e beh, se quell'antenna non era fatta per gli 11 metri, è ovvio che non andava. Va bene, dai, niente di importante. Capito Marco? Sì, sì. Volevo dare, dire una cosa a Eugenio. Allora, Eugenio, io devo, quando parla Claudio e Franco, il clarifier l'ho messo in posizione centrale, come dovrebbe stare. Io a te ti ascolto bene, ma devo girare il clarifier a destra di 30 gradi, capito? Non sei incentrato come loro. Quando ascolto loro lo metto centrale, quando ascolto te lo devo mettere 30 gradi a destra. Per quello ti sento bene, perché sto sempre a giocare col clarifier avanti e indietro, capito? Oh Marco, diga Fra. Guarda come ti ha detto Claudio poco fa, tutta un'altra cosa, dai. Sai, stiamo confrontando due radio con le baracchini, no? Ia. Comunque sì, è difficile trovare un baracchino perfetto, poi sai, questi quando scaldano si spostano di frequenza, più scaldano più scivolano, poi raggiungono una temperatura di esercizio più o meno stabile. Ia. Era anche Pomponio prima, stavo usando un apparecchio lo stesso professionale. Ok, Senti, signori, dai, io vi devo lasciare, devo finire di fare roba qua in casa. Ci sentiamo poco più tardi, dai, in AM o dove volete voi, ok? Ciao Claudio, ciao Franco, ciao Benito. Sì, Benito, dale con Benito. Ciao Virginio, riprendi Claudio, dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao, tutti gli apparati sono professionali, ricordatelo. Va bene. Per capirci, no? Giusto per ricordarti alcune cose. Va bene, ciao, allora sentiamo dopo, eccetera, eccetera. Avanti, Fra. Ehi, ciao Marco, dai, ce ne ascoltiamo dopo. Avanti, Luigi. Da cosa dipende, è quello che ti abbiamo detto qua adesso, dai, perché tu stai usando un barattino, noi stiamo usando roba tutta diversa, quello lì. Come Antonello Pompugno poco fa, io lo ascoltavo molto bene, bello, forte e chiaro, come ascolta Claudio, e via. Solo che vedi tu che solo a te io ascolto male, solo a te, però a Marco lo ascoltavo bene. Quello. Avanti qua. Gappa gappa. Ok, no, ma infatti le stavo spiegando quello, capito? Le stavo spiegando quello. Arriva tutto bapperinato, mi capito? Devo spostarmi a 0,40 come hai detto tu per sentirlo bene, mentre tu sei centratissimo a 75 decimale 00, sicuramente come me, spero come me, Fra. Sì. Guarda, ti ascolto al 100%, ti ascolto a 27.075.00. Sono i decimali zazzerati e vanno perfetto. E come in AM ti ascolto. Ok, dai, ciao Luigi, ci sentiamo. Avanti qua. Ciao EG, alle prossime, dai, stammi bene, cordialità e saluti e ci sentiamo, molto bene. Ok Fra, dai, va bene, io rimango in QRX che devo fare un paio di chiamate al telefono e poi sono in ascolto una M, Fra, eh? Ok? Dai, se no ci ho goduto la gira in Oghi perché c'è un bel caldo, dai. Ci aggiorniamo dopo, Fra, va bene? Ehi, ciao Claudio, buona proseguo di serata, buon tutto se non ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao Fra, rimanga in ascolto, vai, che va giù un caldo da mulino qua. Ci sentiamo dopo al limite, ciao, ciao. Sembra che ci sia una nave che sta combattendo. Fulmine. Ora, a chiave. visto mai, è andato a farsi benedire, cosa può essere? Boh. C'è questo rumore. Andare, va bene. Vale, adesso mi senti? Vabbè, sempre lo stesso microfono però. Sì, però sto sentendo meglio, non c'è più quel suono. No, ho capito, va bene. Evidentemente il capo, non lo so. Questo è il microfono normale, è suo, del 44. No, forse perché c'era quel rumore lì, era non lo so, la faceva un po' come adesso è più chiara, e non c'è più quel rumore, diciamo, è molto meglio. Tanto meglio di prima, no? Però non è la stessa, beh. Va bene così, usiamo un po' il microfono normale, sennò è un casino. Ogni tanto bisogna mettere in funzione, sì, sennò è un casino, capite? Io volevo fare il modifiche perché c'è troppo caldo. No, ce l'alimentavo un po', l'alimentatore che è troppo, non va bene. No, volevo mettere sopra l'aria aperta perché sta caldando di brutto. No, l'alimentatore non lo coprire d'estate, no? Vai. Non lo coprire, io ce l'ho praticamente, gli alimentatori sono liberi e sono già visto sotto la finestra. In un'altra base io alimentatori non ne ho vicino alle radio, non serve a niente avere alimentatori vicino alle radio. No, io ce l'ho sotto, richiamo sotto, no? E non va bene. No, lo devo mettere su alla terra, se non al tuo spazio, tu mi puoi con questo caldo poi io non faccio niente, io rimango fermo, non come devo muovere. E tu ti muovi, io mi sono scappato, c'è mezzogiorno, figurati. A mezzogiorno sono scappato. Perché siamo andati in un impianto dove c'è più fresco, capito? Con gli impianti bassi siamo andati via perché non si poteva resistere, non c'è niente da fare. Ah, beh, tu stai in una zona coperta, dove non c'è niente, dove non c'è vento, perché si muove. Non era così fuori, non era così tanto, adesso sta aumentando, ogni volta più, adesso sta aumentando la temperatura, invece di diminuire sta aumentando, ma è più buona questa cosa. Infatti aveva detto che era in salita la temperatura, non in discesa, perciò penso che tutta la sera sia così e poi anche domani. Anche domani però basta che arrivi una bella maestralata, un po' di fresco, e se no cazzo, non è neanche iniziata l'estate ancora, cosa sarà allora a luglio, non va bene. Mamma mia, c'ho già caldo io, sta arrivando un pochino d'aria sinistra aperta. Cazzo, 28 è troppo, si asciuga. Abbiamo e cipolletta, patate, non ne abbiamo patate, cipolle abbiamo. Claudio. Claudio. No, eravamo, sì, aspetta lì, eravamo qua sul canale 10, poco fermo alla laterale, capite? Già c'è Marco, forse in ascolto. Dimmi, Nathalie. Ehi, Campano, va là, mi prendete per dirvi che ci sono, buonasera. Ah, ci sei, sei andato là? Sì, sì, sono andato, però non ha minacciato di uccidermi, quindi nel penale non entra. Bisogna fare un esposto che è già fatto, la giù ha fatto, è pronta a buttare giù, se mi suona attorno al campanello vado la porta in questo. Ok, un esposto, una diffida che hai fatto, quello che ti ho detto io. Sì, io non ho capito, lo so dire. Pronto, è firmato il video, pronto a portare. Perfetto, perfetto. Tu cerca di sollevare la voce, però non entrai così, che non ti intendo quasi io, figurati Valerio. Hai gas e futidini, capito? Io parlo con il microfono normale, del 44, che non lo uso mai, infatti poco fa si era mezzo inchiodato. E io purtroppo sono con un omologato, capito? Non so se mi ascolti bene, buh. Sì, si avvicina bocca al microfono, sì che ti ascolto, se no non ti sento del radio. Ah, ecco, devo parlare così, dai. Esatto, devi parlare con la bocca sul microfono, altrimenti non ti accoppio. Sicuramente Valeria non ti sente perché c'è una propagazione da paura. Valerio, senti a Nathalie. Io già lo sento Natalino, 9:20 qua, però la radio è bassa, capite? E cosa aumenta? Cosa aumenta, progredirale? Di Guglio, cosa aumenta? Tu hai capito? È un bisticcio totale tra la via, è un bisticcio totale, non si riesce a togliere i piedi. Ma mi intendi, Valerio? Ma dove? Dove sta accordando? Propagazione? Sento anche io 9, una portata a Santiago 9, tu ce l'avrai 9:10, però qua è 9, ma è propagazione. Mamma mia, non si può più, no. E devo parlare con la sera, la sera, poco no. Eppure conosce propagazione, perché qua è un casino. Ecco, già vuol dire che io, infatti è un bel prezzo. Un bel presto per stare in radio. Avanti Nathalie. Eia, Marco, non vedi? Eravamo poco fa in banda laterale qua sul canale 10 e stava facendo le prove con Antonello. Tu ha detto che si allontanava, poi ritornava, capito? Sì, aveva la turra, quel ratta pignara. Sì, aveva la turra. Sicuramente a torra. Oh signore, ma te lo puoi immaginare? Come c'è da costruire il computer, che ce l'ho incasinato. Ehi, ti ha giudito di avvicinarti la bocca, se no c'è un microfono, pone l'orologio, pone l'altro microfono. Non ne ho per qua. Faccio un po' di fatica Natalia a sentirti, troppo bassa quella modulazione, madonna che... E bari saranno che mi accorti male, non male, bassa la modulazione. A microfono normale, che cosa vuoi per il TD? Anch'io sto usando il microfono normale, ma se non ci parli sopra, anch'io ce l'ho attaccato alla bocca, se non ci parli sopra non ti sento. Io ce l'ho attaccato alla bocca, proprio. proprio per questo che non mi senti. Allora forse come ti giri al computer che manca la modulazione. Va bene. Comunque io di così non posso fare per il momento. Va bene, va bene. Quindi con chi sono di tuoi beggi? Oh, Zac, lo dico anche con questo. E allora gli ordina tutti. Non lo sai perché l'ho messo questo. Tu devi molto attaccato, solo da attaccare antenna. Non devi da fare la roba come no? Allora nasce un campanello, no? Infatti va. Non prendo quell'altro perché non fa con questo, va. Attacca l'altro, attacca, fammelo piacere, già, ci senti. Attacca l'altro, quello te lo tieni lì. In alimentazione è pronto a collegare l'antenna, hai capito? Perché uno è usarlo, l'altro è temerlo, perciò non baragogia. Non te vengono, ti trova l'antenna attaccata all'omologato e quello lì a fianco, spento, nessuno ti può dire niente. O no, Vale, non è così la legge. Vabbè, cosa vuoi fare? A me già me la zocca nessuno, Ian. E quando me la zocca, io sto qua in casa. Tanto la documentazione appesa al muro, quindi poco me la fuso a me. Datemi 10 minuti che aspetto un attimo, dai. Devo dare a mangiare a Filippo, sennò poi troppo tardi. Natali, e va a mangiare a Filippo, mettila tra radio un attimo. Ehi. L'antenna e basta, e quello lo spegni, nessuno ti può dire niente. Infatti, ti dico che lo uso per ascolto, sto mettendo la licenza di essere più WL, la campagna. Non devi dare spiegazione a nessuno, capito? Tu sotto antenna c'hai l'omologato, quindi non devi dare spiegazione a nessuno, quello è lì, è spento. Perciò, capito? Ehi, c'è il commutatore, l'antenna. Ok, commuto per ascoltare, basta, io questo sto usando e questo uso, punto. Ok. Se non ti chiedono spiegazione, tu non dare mai spiegazione a nessuno. Tutti i tipi. Lascia fare a quelli che devono fare. Ma Marco, pari tu. Sì, io sono qua io. Ok, a posto. Perché ho mandato la concertata nella ricarica, però non me ne era arrivato di massaggio. Ah, non te ne era arrivato, come mai? Già me l'ha creditato nel corso della lavora, un po' se sono in ritardo gli sms. Ah, ho capito. Aspetta un minuto, un secondo solo. Il telefono, mamma mia, lo odio che... Sì, a me lo dici. Marcolino Comba, ci sei? Abusivo. Attento, abusivo, Marcolino Comba, ci sei? Thank you. dovuto uscire, mi hanno chiamato, sono dovuto uscire. Se vuoi rientrare da uomo, mi manco lo cane, mi buttate. Lo porterò più tardi, lo porterò più. È andata mia moglie a portarlo, io. Il mio è suo, Il nostro ancora è qua, ho mangiato poco fa, sono dovuto uscire, capito? Sì, me la sono immaginato, è toccata, deve essere la mia telefonata alle 12. Sì, sono uscito, sceso a ritirare materiale prima che chiudeva, capito? Non presa niente. Ma sarà pure della signora, Buru. Sì. Piano piano gli attorrani tutti. L'MLM è un caldo pure allucinante. Io sono a petto nudo qua in tuta, in ciabatte e bu. No, io sono a petto nudo e mutande bu. Sei infradito qua. C'è un caldo da morire. Lo so. Ma qua non c'è tanto caldo qua dentro. Però si sicura da ammazza. Tu c'è di mura un bel grosso, capito? Il centro storico è così, c'è molto fresco rispetto alla città, così in alto, anche se sono in alto io. Prende un po' d'aria, però è poca, capito? Poca, poca. Manco il ventilatore non l'ho acceso, però me l'ho comprato l'altro giorno perché mia moglie me l'ha fatto bruciare con la colonna, era quello con la colonna, e l'ha voluto senza colonna, e ora ve la giurrà da comprare. No, io ce l'ho la colonna, però non l'ho acceso, capito? Aspetta, metto il microfono a tavola, a lì, a me a tenere il microfono in mano, ma venendo più caldo, sì. Sicuramente me sì. Ecco quanto è brutto il microfono alla palma, mamma mia, che fastidio che mi dà. Aspetta, un minuto, diciamo subito. Oh, ecco qua. Acqua per la bocca, arrivi a ma con questo microfono. Che è brutto, il microfono da palmo è brutto, brutto, io non ne ho mai usato, non ne uso, infatti la gemella funziona più, se l'hai cercato, c'è un rumore, tu è sparito, non so, vabbè, attento Marco, in FM. Non la giovana, io devo di extra. Vabbè, vedremo un po'. Sì, la scelta è di extra, diciamo. Quella tappignara non si fa vedere, malefico. Deve essere accalorito. Se è una tappignara, Villovi! Hai visto? Cosa fermi? Hai visto? Non niente! Buonasera a tutti! Buonasera! Saluto! Io sto sempre mangiando. Ho pranzato prima, tardi un po'. 7:15, anche 7:30. Adesso stavo finendo mangiando qualche roba dolce, così. Anche oggi caldo, però oggi mi sono stato tutto il giorno a casa spaparanzato. Ho fatto giusto un po' di pulizia in cucina, ho buttato la sabbia dei gatti, che faceva schifo, no? Poi stanotte sul tardi la voglio buttare la mondeccia, quando non c'è fretta, quando non c'è caldo. Possiamo arrivare? Passiamo con due di Gessa. Eia, ex amico mio vuoi dire? Vabbè, no. Capito, magari se rifà, mette una bella contravvenzione, ma non può avere più baracella che c'era, mi spinto io lo portetto di nulla, cioè. Io mi devo rifare nel tablet perso. Oh, ma qua quella non è roba differenziata, differenziata la faccio. Però adesso la plastica l'ho buttata, il cartone lo sto riempiendo appena adesso, le bottiglie lo stesso, ancora ne ho poche. Io non è che esco ogni giorno e butto una bottiglia, il vetro, una di plastica, aspetto a averne un po'. Quando ne ho una bustina piena la butto, così il cartone, plastica, eccetera. Caro Natalino, novità? Novità che sono andato in questura e mi hanno detto che non mi vuole uccidere, quindi sul penale non ci siamo e mi hanno detto a fare un esposto. E io l'ho fatto, l'ho scritto, adesso se viene a bussarmi la porta subito l'indomani sto andando e lo consegno. Così va l'anticrimine e poi si arrangiano loro. Purtroppo sai cos'è, le stalking, come diceva Claudio, adesso è una cosa continuata e aggravata, ma continuata settimane, mesi, non perché ti ha bussato la porta 3 o 4 volte, no, adesso è una cosa proprio continua. Vabbè, poi nota l'ignoranza, non vuole l'aiuto, ma allo stesso tempo non vuole che moduli più. Allucinante, allucinante. Vabbè. È importante non disturbare nel proprio palazzo. Se si disturba in fondo al vicolo il problema è il suo, cosa vuoi dire? E poi ho scoperto pure perché disturba, perché di quell'antenna ne usufruisce pure lui, oltre al palazzo, non è buttato anche pazzi d'ori, chissà cosa cazzo ne va, e vabbè va. Se gli impianti vanno fatti bene, soltanto poco rovinare un impianto, me. L'acqua nel cavo, l'acqua nella scatoletta, i collegamenti fatti non bene. Pensa che un amico tanti anni fa, Marcello, sai come l'aveva fatto l'impianto TV? Pigliato la calce al centrale, no? Li ha sbucciati e li ha uniti assieme e infilati nel buco della scatoletta. Senza stringere le vittime, li hai falati così. Quando l'ho visto ero agghiacciato, ho detto, ma chi ha fatto questo impianto? E lui, io. Ma non si unisce, questo bisogna fissare con la vite centrale, fissare separatamente la calza, ma roba da matti, roba da matti. E se la gente non li sa, ci credono di... Vabbè, questo l'hanno fatta la cazzo di cane, perché se è logico che il segnale arriva debole. Prende tutti gli subi per causa dell'amplificatore e tutto, l'amplificatore ha poi più da chi sono attivo io. L'amplificatore purtroppo si può tirare dentro roba. Si può tirare dentro roba, capito? Soprattutto questi cinesi, no? Larga banda, prendono tutto, cellulari, radio FM, televisione, tutto, baracchini. Vai Claudio, riprendi. Ma hai capito cosa ha fatto questo? Praticamente con un'antenna ne usufruiscono due famiglie, quindi c'è anche un partitore, capito? Lì c'è, non va bene, è fatto così. E poi di due vicoli più in là, perché quello abita due vicoli più in là. Ed ecco perché si incazza, perché non l'avevo neanche lui. Beh certo, certo, però il lavoro è fatto malissimo, non si può fare così, lo separato. Se è fatto bene, per esempio, se tu con un'antenna vuoi servire due famiglie, anziché il partitore, io avrei messo un miseratore apposito fatto con due uscite, più due uscite complete, sia per un'utenza sia per l'altra. Allora tutto cambia, è fatto apposta però. Il partitore, insomma, è un po' lonfio, Bisogna fare una scatoletta, antenna nuova, antenna VHF, antenna VHF. Fatto bene l'impianto, ho messo un partito, una scatoletta, un miscelatore con due uscite, eccetera. Un cavo nuovo, naturalmente nel cavo non deve entrare acqua. Pensa che un'amica di mamma, no, mi ha telefonato, dice, Marco, dice, ma ti devo chiedere una cosa, ma è normale che esca l'acqua dal cavo, l'antenna della TV? No, non è normale, no, non deve uscire. Pensa, come pioveva le scendeva proprio l'acqua dal cavo. Immaginati in che condizioni era questo cavo. Poi rischio di fare cortocircuito col televisore, mi. Per carità di Dio. Ha detto se era normale. Interessante. No, no, normale, va bene, nel senso, no, questa è una persona che vive nel Medioevo, è proprio una persona che vive nel Medioevo. No, non normale, ma ha chiesto, insomma, ha chiesto qualcosa. Ha detto no, assolutamente, non deve uscire acqua. Tipo è arrivato il tecnico, le ha messo a posto tutto l'impianto, eccetera. L'impianto TV va tutto bene, caspita. Soprattutto bisogna chiedere pressionistica, cioè, ho detto, arrivano questi col camice, sembrano gli addetti della NASA, no? C'è il camice con la targhettina lì, no? Di riconoscimento. Tipo 300 euro per un impianto d'antenna. Quando io è Pippo, per quello lo lodo sempre. Andavamo a fare impianti d'antenna, dovevamo comprare solo il materiale e poi compenso 50.000 lire, capito, per piazzarlo, il resto era materiale, quindi figurati, poco. Se ti chiedono 300 euro, che sono 600.000 lire, non so se mi spiego, 600.000 lire per uno schifosissimo impianto TV, un'antenna TV. Non lo so io che cosa bisogna fare, so che c'è il lavoro. Non forse ne sa di più, non so se si vale 300 euro. No, io con Pippo pigliavamo nel primo, nel secondo, il miscelatore, il cavo d'antenna, il palo se serviva, se proprio serviva, il materiale quanto ce ne sarà, boh, in lire, mi stiamo parlando degli anni 90, era poco, poi compenso 50 euro, 1000 lire, no, in lire, 50.000 lire. Adesso ti detto, arrivano col camice, arrivano, non esiste, dai. Quello è depredare proprio le persone. Noi quando andavamo da persone anziane anche facevamo pagare poco, perché è un furto chiedere 600.000 lire, l'equivalente 600.000 lire per un'antenna TV. Se tu conti antenna prima, secondo, un ricavo, fai una media di 20 metri. Quindi lì loro ci guadagnano molto, molto, molto. Non so, ti ripeto, non intendo qua, ho fatto un impianto centralizzato, ho fatto sui soldini, ho fatto un lavoro, non so, un mappadino, forse se ne intende di più, cosa dici, 300 euro se non vale un impianto antenna completa? Solo il fatto di salire sul tetto, puoi domandare quanto ti pare ti piazzi. Solo salire sul tetto, no? E allora, naturalmente ci sono di quei tetti spioventi, mamma mia. Deve pensare anche a quello, Don Marco. Vabbè, quello è proprio come quelli che ti magari ti segue il signore, no, cambiano i canali TV, bisogna risintonizzare, chiamano il tecnico, gli fanno pagare l'intervento 30 euro se hanno 50, toccare due tasti, ma vai. Lui faceva, ecco, a posto signora, arrivederci, grazie. Se li voleva offrire un caffè glielo offriva, ma speculare soprattutto sulle persone anziane che non ne sanno. Sì, infatti. Ci guadagnano e poi c'è anche il rischio, il materiale a pagare una cazzata, a chi rimane una cazzata, è di Lucavo quando rubiglia a mattarsi e trattano i suoi debiti di trattare, e hanno lo sconto sulle antenne, su tutto. Io l'ho pagata molto perché l'ho uno sconto come loro non ce l'ho, ho preso quelle moderne, le antenne, quelle proprio per il digitale terrestre, infatti sa di fatto che la mia è una bomba, il UDU. Anche quella è stata una fregatura, cioè le antenne normali per il digitale terrestre andavano benissimo, l'importante è che siano nuove, che il guadagno sia quello. Anche le antenne portatili, no? Sai quelle che attacchi alla 220, no? Da mettere dentro casa o alle roulotte, che era scritto il bolino, adatta al digitale terrestre. Pensa, io ne avevo una di 40 anni fa e adatta lo stesso al digitale terrestre. Per carità, tutti becci. Cosa volevo dire? Boh. Io ho anche l'amplificatore, tutto pure non disturbo. Ed è attaccata l'antenna TV mio a me. Perciò l'amplificatore TV, l'alimentatore sotto, addirittura. Cazzo. Guarda. Anzi, ti posso telefonare, Cla, che ti dico che ci deve essere un'altra maragna sotto. Anche a me. E dopo chiama a te. Magagne, ce n'è un bel. Oh, chissà cosa altro c'è sotto. Mamma mia, mamma di furchi. Boh, è nulla. Oh, si sta allargando un po' troppo la barbona di Platamona, eh. Oh, ah, cosa tieni, tutto c'è, eh? No, siccome li abbiamo portato da mangiare un giorno, no? Con i ravioli, col sugo, no? Mi ha chiesto ieri se potevamo prendere una confezione di pane, mi ha detto un pane particolare, un po' di affettato, però dice no mortadella e un prosciutto cotto, solo salame mi piace. Tipo, cominciamo a fare la spesa per lei. A me dà fastidio quando gli dai un euro, magari ti chiede un euro per il caffè che poi è per mangiare, no? Piano piano si allargano, così non mi va proprio. Vabbè, non va, no. Accettare quello che ti danno, i soldi a partiriti non è un casino, se no per un conflitto andi a Caritas. Io chiamo mettermi in difficoltà, dovevi fare questa spesuccia solo per lei, portare, lui non lo smette più, che se tu alle persone gli dai un libro si piglia tutto il braccio, ricordati, è sempre così. E infatti io il braccio l'ho tirato indietro, non voglio più a nessuno braccio, capito? Ho solo il dito, questo lo tiro indietro il braccio. Vabbè. Poi quando portavamo da mangiare i cani, lo voleva, dice no, lo di a me che glielo do io. Ho pensato, ma non è che questa si mangia il mangiare i cani, no? Adesso altre. Marco rispondi, Tinuccio rispondi. Sì, mi ha chiamato ma io non ce l'ho presso, ero nell'altra stanza e mi lavavo le mani. Mandami un sunto, dillomi, un attimo. Uli, vabbè. Che ore saranno? Ah, me, 8:22, aspetta. Dopo guardo cosa c'è in TV. Oh signor, immagina cazzo, mi sembra che mi resto, mi cambio. E me ne vado in giro con mia moglie. Non si sarebbe mai. La pigliamo in fresco, me ne vado a Platamona, boh, forse a Torres, non lo so. Così mi piglio un po' di brecco. Il taglio. Adesso mangiamo e poi dopo cena usciamo. Il biglietto è un bel gelato. Ma ci vieni tu? C'è chi si muove da qua? Sì, un ratto a pignava, sì, cazzo. Lo pago io il gelato, non ti faccio spendere manco 5 lire, bene? Ma. No, non è per quello, che li ho i soldi, No, non esco. Però oggi basta, non esco. Cazzo, ma te li mai, neanche pagando il gelato con ciò ci viene questo. Ma te li là. Se vuole mandare, adesso prima mangiamo, poi se decidiamo di andare glielo diciamo. Hai capito? Peccato non c'è nessuno al baracchino, se no avremmo parlato. Sì, ma tanto mi attacco la TV dopo Natale, dai. Bene, dai. Comincio a vedere cosa c'è in televisione, ok? Ciao Claudio, se l'ascolto. Ciao Natalino, dai, buonanotte. Ok, va bene, ci sentiamo. Ciao Cla, anche io chiudo. Oh, io vado a prendere il cane dopo.